Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Siamo al primo appuntamento di questa settimana insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Ben trovato Gianluca Codognato. Ciao Mirko, un saluto ai radioascoltatori. Allora, parliamo di anziani, è un tema un po' complesso insomma da sviluppare, ma ci proviamo. Arriva una legge aggravante per le truffe agli anziani, insomma ne abbiamo raccontate tante in questi anni insieme all'Adico di Mestre, di vicende con anziani vittime di diverse truffe. Allora, cosa c'è in vista nel codice penale? Sì, Mirko, intanto ovviamente siamo contenti, siamo felici di questa novità che è prevista dal primo articolo della norma 4130 e che verrà discussa dalla Camera la prossima settimana. E viene introdotta una norma che noi riteniamo molto importante. In buona sostanza viene riconosciuto l'aggravante per quanto riguarda le truffe, ma in realtà anche per quanto riguarda le rapine, poi un attimo andremo a vedere, e quando la vittima di questa truffa o di questa rapina sia un over 65, quindi una persona cosiddetta anziana o insomma che rientra in questa categoria. Ecco, questa nuova introduzione, appunto ripeto, poi verrà discussa alla Camera, ma noi supponiamo e speriamo insomma che poi passi tutto, è molto importante, va in buona sostanza ad aggravare la posizione dei truffatori o dei rapinatori eccetera. Guarda Mirko, la questione è un po' tecnica, ma in realtà insomma anche abbastanza intuibile. Intanto per cominciare appunto la legge prevede che per quanto riguarda raggiri, truffe, circonvenzioni, la situazione di chi le commette diventa più grave di fronte alla giustizia quando appunto il protagonista, la vittima, è un over 65. In particolare gli over 65 fanno sì che il reato di truffa diventi direttamente un reato aggravato, ovvero se io commetto una truffa nei confronti di una persona anziana, questo reato già di per sé, avendolo compiuto nei riguardi di un over 65, diventa un reato aggravato. Quindi questa è già una cosa molto positiva, perché chiaramente aumentano anche le pene per chi commette il fatto. In più gli articoli prevedono anche delle particolarità per quanto riguarda la sospensione condizionale della pena e la custodia cautelare, in quanto tutte queste possibilità che si concedono appunto a chi commette un reato diventano più difficile applicarle nel momento in cui il reato venga compiuto nei confronti di un over 65. In parole povere, lo Stato va a tutelare, a riconoscere una situazione di superiore debolezza da parte appunto delle persone di una certa età, e quindi va a definire molto più odioso il crimine nel momento in cui appunto vittima ne sia una persona, un over 65. Si potrebbe discutere appunto su questo limite, certo magari un tetto bisogna metterlo appunto a 65 anni, molti tranno molto, anzi già adesso sono ancora in età lavorativa, ahimè, l'età sarà ancora più alta nei prossimi anni, ma insomma ciò non toglie che comunque tendenzialmente con l'avanzare dell'età si entri nelle cosiddette fasce deboli della popolazione, deboli se non altro per età. Magari si tratta di anziani che invece sono pochi, ma insomma stanno anche molto bene dal punto di vista diciamo economico, e speriamo anche di salute. Questa aggravante, Gianluca, riguarda le truffe, abbiamo detto, ma riguarda anche altri reati, come ad esempio le rapine, penso ai casi insomma di rapine vicino nei pressi delle poste, no? Ecco, purtroppo episodi molto odiosi che succedono spesso, e semplicemente nel momento in cui la rapina venga effettuata a un over 65 diventa subito una rapina aggravata, che quindi viene punita con la reclusione da 4 anni e 6 mesi a 20 anni e con una multa anche molto elevata, e mentre chiaramente il reato di rapina normale non aggravato prevede meno anni di reclusione, esattamente da 3 a 10 anni, e anche una multa più bassa. Quindi se io compio una rapina nei riguardi di un over 65, automaticamente scatta la rapina aggravata. Come dici giustamente te, è chiaro, se uno sta per compiere 64-65 anni, sono molte particolarità che bisogna andare a vedere. È pur vero che per convenzione, anche per quanto riguarda ad esempio la questione sanitaria, gli over 65 hanno tutta una serie di vantaggi ed è stabilito per legge, insomma, che quella è l'età da cui si diventa anziani, poi si sa che insomma se ne potrebbe discutere a lungo. Io vorrei dire che noi come Adico, al di là appunto delle truffe classiche, diciamo così, quindi il finto prete, il finto poliziotto che si presenta in casa, per il quale ovviamente è necessaria una querela, una denuncia alle forze dell'ordine, e noi ci troviamo ad affrontare simili raggiri, chiamiamoli così, tipo i venditori porta a porta, oppure anche i famosi contratti strappati al telefono a poveri anziani che non sanno neanche di essere stati contattati appunto da una compagnia telefonica o da un fornitore di gas e luce. Qua chiaramente si tratta di truffe o di raggiri un po' più tra virgolette leggeri, noi ne seguiamo tantissimi e Mirko, io ho avuto situazioni in cui ho dovuto fare 2-3 recessi a una stessa persona, mi ricordo era un over 80, perché la chiamavano continuamente e le facevano stipulare continui nuovi contratti, in questo caso era di luce o di gas, non mi ricordo. Ecco, secondo me qua il reato di truffa potrebbe tranquillamente essere riconosciuto in queste situazioni, e allora in questo caso ne avremo veramente tanti. E noi allora auguriamo buon lavoro all'Adico, che comunque rimane a disposizione anche nel mese di agosto, associazionedifesaconsumatori.it. Grazie Gianluca, ci sentiamo tra qualche giorno. Grazie a te Mirko. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.